Jo camino ogni notte, io cammino svariando. Io non tengo mai sonno, non chiudo mai il botte, non bevo caffè. Va de go che sienta me, va de go che sienta me, va de go che sienta me. Una partiana che sbatte, giù lampiona galluce. E un ubriaca che diccio pulsando una porta amarabra bucce. Escurda, venda de chido, mago, maya va. Va de go que siéntame, va de go que siéntame.